Essere e benessere di Nicoletta Carbone. 40-30-30, questa è la formula della dieta zona, ormai diventata un grande classico. Il suo ideatore Barry Sears, di passaggio a Milano nei giorni scorsi, ci è venuto a trovare in redazione. Io ho colto la palla al balzo per fare due chiacchiere con lui che vi farò ascoltare tra poco. Ma intanto saluto il nostro dottor Filippo Ongaro, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dottor Ongaro, dopo la restrizione calorica di Veronesi, ci occupiamo ora con Barry Sears della zona, in questi incontri che, dottore, possiamo chiamare le grandi diete, conoscerle per prendere il meglio. La butto lì. Cosa dice? Sì, in realtà l'idea è proprio quella di capire un po' più nel dettaglio che cosa viene proposto in queste diete, e partire anche un po' dal presupposto che quasi tutti questi approcci hanno qualcosa che possiamo prendere e fare nostro, danno un contributo importante alla conoscenza. Bisogna non estremizzare, cercare di capire, interpretare quello che ci viene consigliato, anche alla luce ovviamente degli studi scientifici. 800 24 00 24, se volete intervenire potete come sempre seguirci su Facebook e su Twitter. Ma qui in studio con me do il benvenuto alla dottoressa Daniela Morandi, nutrizionista e naturopata, che con Barry Sears ha scritto il libro La zona del futuro, Sperling editore. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dottoressa, lei si è messa in cucina, ha preparato ricette molto semplici e molto buone, ma con l'obiettivo di anche dimostrare che cucinare in zona è facile. Ma io chiedo a lei: che differenza c'è preparare una ricetta buona e preparare una ricetta equilibrata, che quindi deve essere buona ma può fare anche bene? Certo. Sì, è un affar serio, nel senso che fare una ricetta buona è già difficile, perché bisogna veramente tenere d'occhio un sacco di fattori: il gusto, l'equilibrio, i cromatismi. Farla bilanciata bisogna veramente stare molto attenti, perché a parte il fatto di partire da un bilanciamento presupposto del 40-30-30, vanno anche tenuti molto sott'occhio altri parametri. Per esempio, non vanno comunque dimenticati gli apporti calorici, che devono essere comunque controllati pasto dopo pasto, perché non è che non contano, sì, più, certo, le calorie. Devono essere controllati molto bene i carichi glicemici, mm-hmm, e quindi un corretto utilizzo dei carboidrati favorevoli nella forma della frutta e della verdura. Io vado un pochino oltre, perché dalla mia esperienza in studio mi sono accorta che molto spesso cose che noi riteniamo generalmente favorevoli, semplici da utilizzare, come, faccio un esempio, l'ananas, in alcuni soggetti che non hanno una grande fortuna genetica e quindi una risposta glicemica eccezionale, possono avere delle risposte un po' ambigue, quindi magari gli viene fame presto dopo aver mangiato quel piatto. Ecco che allora, quando si formula una ricetta, si cerca di evitare un po' le possibili trappole che ci possono essere. Questo deriva solo dall'esperienza quotidiana in studio, per cui alla fine tenere conto le calorie, le proporzioni, i colori, i gusti, i sapori, è un bel impegno. Ma lei nel corso della trasmissione ci darà anche qualche ricetta. Assolutamente. E soprattutto ci insegnerà a preparare delle ricette che non solo siano buone, ci diano soddisfazione per mangiare con gli amici, da gustare in compagnia, ma ci aiutino anche soprattutto a stare bene. Certo. Andiamo a sentire Barry Sears. Intanto voi, se state seguendo o avete seguito la dieta zona, chiamateci se avete dubbi, curiosità, 800 24 00 24, e partendo dalle vostre scelte a tavola, colazione, pranzo, cena, spuntini, insieme al dottor Ongaro e oggi con l'aiuto della dottoressa Morandi, vi suggeriremo come e cosa sostituire o cosa aggiungere, ridurre per stare bene. L'idea è: prendi il meglio che fa per te. Dottor Ongaro. Sì, perché alla fine, appunto, come stavamo dicendo, è anche un problema di combinazioni, di scelte e di allenamento, inteso come comprendere anche che risposta otteniamo dagli alimenti una volta che li introduciamo e iniziamo a mangiarli. Quindi bisogna avere più conoscenza, un po' più di educazione e prendere appunto il meglio di queste proposte che ci vengono fornite da ricercatori e scienziati. Dimmi cosa mangi e quando mangi, questo è importante, ma aggiungerei: dimmi come ti senti. E per rispondere a questa semplice domanda dobbiamo individuare e interpretare i segnali che il corpo ci manda, e dottor Ongaro lo fa continuamente. È che noi facciamo finta di nulla, oppure ci siamo talmente abituate a sentire quel segnale lì che lo spegniamo sempre nello stesso modo e la situazione si cronicizza. Dottore. Sì, assolutamente, direi addirittura alle volte tendiamo a dare una risposta che è proprio quella sbagliata a questi tipi di segnali, come il calo di energia a metà mattina, la sonnolenza dopo i pasti o i crampi nello sportivo. Sono tutte indicazioni che c'è qualcosa da ottimizzare e spesso la risposta che diamo a queste indicazioni è molto superficiale, quindi vedremo nel corso della puntata un po' meglio qual è la risposta giusta da dare e qual è l'interpretazione da dare a questi segnali. Quindi diteci che cosa mangiate, diteci come vi sentite. 800 24 00 24, i nostri esperti si occuperanno naturalmente di voi, cucineremo, bilanceremo, mescoleremo, insomma ne faremo come sempre di cotte e di crude, ma soprattutto tutto per continuare a stare bene, ritrovare il benessere. Andiamo a sentire adesso che cosa ci ha raccontato Barry Sears. 40, 30, 30 sono i numeri che stanno a rappresentare il rapporto corretto tra carboidrati, proteine e grassi da abbinare ad ogni pasto. La formula in teoria è semplice, ma nella pratica come si fa a mantenere sempre questo equilibrio? 40, 30, 30, we mean the percentage of calories. And to make that even easier, to reach that calories, all you need is one hand and one eye. 40-30-30 di per sé è già abbastanza semplice, perché indica la percentuale di calorie, ma questo concetto può essere semplificato utilizzando l'occhio e la mano. Ad ogni pasto possiamo dividere il piatto in tre sezioni uguali, dove in un terzo del piatto mettiamo una proteina a basso tenore di grassi, come carne bianca o pesce, della dimensione del palmo della nostra mano. I due terzi del piatto vanno poi riempiti di carboidrati colorati, come ad esempio frutta e verdura, e poi ci si aggiunge un po' di olio extravergine d'oliva. Non fare mai passare oltre 5 ore tra un pasto principale e un altro. Costruendo il piatto in questa maniera, si mantiene un perfetto equilibrio fra i macronutrienti e, cosa ancora più importante, si permette in questo modo di controllare gli ormoni. Controllare gli ormoni significa maggiore salute. Control the hormones in your body. Control your hormones, you control your future. Dottor Sears, più volte lei ha presentato la zona come una evoluzione della dieta mediterranea. Io ho un po' di difficoltà a seguirla. Mi aiuta a capire? Partiamo dalle somiglianze? As you see, there's many similarities between the zone diet and the Mediterranean diet. Ci sono molte somiglianze fra la dieta a zona e la dieta mediterranea. Infatti entrambe fanno abbondante uso di frutta e verdura. In entrambi i casi abbiamo proteine magre, non troppe, ma una quantità adeguata. Ed entrambe queste strategie alimentari prevedono l'utilizzo dell'olio extravergine d'oliva. C'è però una differenza tra le due e fondamentalmente è data dal fatto che con la dieta a zona si consumano molto meno carboidrati bianchi, quindi pasta, pane, riso e patate. Questi vengono sostituiti da una quantità ancora superiore di carboidrati colorati, cioè frutta e verdura. La dieta a zona prende i principi della dieta mediterranea e fa far loro un passo avanti per poter garantire a tutti una migliore qualità di vita. Così, in questo modo, si prende una dieta già buona, ossia la mediterranea, e la si rende migliore. Da un punto di vista ormonale, abbiamo così la dieta a zona. Takes a good diet, the Mediterranean diet, and turns it into a hormonally superior diet, the zone diet. Dottor Sears, ma anche la dieta a zona si evolve, va avanti, c'è qualcosa di nuovo, tanto che lei ha scritto un nuovo libro a quattro mani questa volta ed è già una novità. Ma che altro c'è di nuovo? What's new in the zone of the future is that we have now a better understanding. Di nuovo in questa filosofia di vita c'è che adesso abbiamo una comprensione ancora superiore dell'importanza dei carboidrati colorati, di quanto siano utili per il nostro organismo, di quanto gli ingredienti che questi carboidrati contengono possono attivare e disattivare. Pertanto questi carboidrati colorati potrebbero essere utilizzati come veri e propri farmaci. Nel libro si parla anche di un altro aspetto, che adesso conosciamo meglio di prima, di come i cibi trasformati, lavorati, stiano modificando l'espressione dei geni. È come se si liberasse una sorta di virus genetico che rende la popolazione del pianeta più grassa e più vecchia. Quindi mettiamo insieme queste due nuove e più approfondite conoscenze: il ruolo dei polifenoli e il ruolo degli alimenti lavorati. Dottor Searce, c'è molto dei principi della nutrigenomica in quello che mi racconta. That is correct. Certo che sì, perché adesso ci troviamo davanti a un periodo entusiasmante per quanto riguarda la nutrizione, perché attraverso i cibi che assumiamo possiamo attivare o disattivare i geni. In questo modo abbiamo una migliore modalità di tenere sotto controllo il futuro. And the more knowledgeable we are in that, the better we can control our future. Così parlò Barry Searce. 800-24-0024 se siete voi a voler parlare con noi. Dottor Ongaro, prendiamo il meglio dalla zona. Beh, diciamo che è un po' musica per le nostre orecchie, no? Poi si può stare a discutere sui dettagli, però quello che sta dicendo Searce è fondamentale, molto importante, il discorso del cibo che si relaziona con i geni. Poi devo dire che Searce è stato uno dei primi ad avere il grande merito di introdurre il concetto di una dieta antinfiammatoria, quindi di saper selezionare i grassi. Infatti ha parlato di olio d'oliva e potremmo parlare anche di omega 3, proprio per questa funzione antinfiammatoria molto importante anche nello sviluppo dell'invecchiamento. Poi si riducono gli zuccheri, si riducono i carboidrati raffinati a favore delle verdure, che è un altro passo utile. Tenere bassa la risposta insulinica e bassa l'infiammazione e arricchire l'alimentazione di antiossidanti attraverso l'uso di frutta e verdura vuol dire in fondo lavorare su tre dei fattori fondamentali dell'invecchiamento, che sono appunto l'ossidazione, l'infiammazione e la glicazione, ossia questa dispersione di zuccheri all'interno dell'organismo. Quindi i punti di forza sono tanti. Poi voglio dire, è chiaro che si può stare a discutere se il 40-30-30 deve essere una formula precisa esatta per tutti, ma questo dal mio punto di vista, Nicoletta, come sempre sono cose secondarie, cioè prendiamo il messaggio forte è assolutamente condivisibile. E noi andiamo a Treviso, dottor Ongaro, pensi? C'è Imma che ci chiama. Pensavo dicesse andiamo a Treviso da me, dico no, sono già qua. Infatti, per questo le dico a Treviso, perché so che lei è lì, e c'è anche Imma. Buongiorno. Salve, buongiorno, sono Imma. Eccola qua, ci racconti. Io in effetti ho un marito che ha problemi di glicemia alta da qualche anno, però in effetti dovrebbe dimagrire 8 kg. Perché non, per non ci riesce, nonostante comunque lui faccia una dieta ricca di frutta e verdura, quindi non so, mangia 50 grammi di pasta a mezzogiorno con verdure oppure legumi, e la sera dovrebbe mangiare per la sua dieta 100 grammi di pane, però a volte praticamente lui li riduce, non riesce a diminuire. Non va giù netto. Imma, sai che è abbastanza diffuso il problema? Scusi, l'ho interrotta, voleva aggiungere qualcosa? Io molti ascoltatori mi scrivono e tante volte intervengono nelle nostre incontri con il dottor Ongaro. Ci sono delle persone che mangiano davvero poco, stanno anche attenti a quello che mangiano, inseriscono la frutta, le verdure, le proteine, riducono i carboidrati, non scendono di un grammo. Dottoressa Morandi. Sì, è un caso molto frequente, molto spesso in studio vedo persone che addirittura mangiano troppo poco, eppure la massa grassa c'è. E qui il grande Searce ha veramente ragione, oltre a scegliere i componenti giusti, quindi la frutta, la verdura, magari le proteine magre, limitare o addirittura eliminare carboidrati sfavorevoli, è proprio la proporzione che fa la differenza, perché io posso mangiare frutta e verdura, ma magari è troppa rispetto a quello che la mia risposta glicemica individuale mi permette, e poi magari mangio troppa frutta rispetto alla verdura che devo mangiare, o magari mangio, chiedo scusa solo un attimo, la frutta sbagliata col carico glicemico un pochino troppo alto per me. Quindi lei, dottoressa Morandi, introduce una parola chiave, personalizzare, che è una parola che piace molto al dottor Ongaro, ma noi che vogliamo consigli da voi e vogliamo delle indicazioni per aggiustare un po' il nostro stile alimentare, che cosa possiamo chiedervi e che cosa possiamo sapere da voi, dottor Ongaro? Ma no, credo che quello che stava dicendo la dottoressa Morandi sia assolutamente vero, cioè non basta dire, ormai quello che emerge con grande chiarezza è non basta più dire mangio poco, e sono anche d'accordo che spesso le persone tendono a mangiare troppo poco. Oggi bisogna guardare alla qualità, alle proporzioni, all'indice glicemico, al fatto che ci sia o non ci sia la fibra, cioè bisogna andare un po' più in profondità, oltre a dover sempre ricordare, anche se voglio dire ci va un po' fuori dalle orecchie questa cosa, che se non ci si muove, se non si fa anche lo sforzo di introdurre la componente dell'attività fisica nel bilancio quotidiano, insomma si fa sempre molta fatica a ridurre veramente il peso e a ottenere il risultato che si vuole, cioè ridurre la massa grassa e mantenere o aumentare la massa muscolare, perché se finisco col perdere muscoli, voglio dire, la perdita di peso in sé non ha alcuna utilità, insomma, anzi. Andiamo da Fabiola dalla provincia di Padova. Fabiola? Sì, pronto. Buongiorno a lei, benvenuta. Buongiorno e grazie di tutti questi consigli che stiamo ascoltando. Grazie. Qualcuno riesce a metterlo in pratica? Sì. Allora. E a volte si confonde la frutta e forse hanno troppi zuccheri e questo magari sbilancia, perché anch'io sono da parecchio tempo in dieta seguita da una nutrizionista, però quando finisco di mangiare, proprio anche se sono alla tavola, sono con il marito, con i figli, mi addormento, quei due secondi però mi addormento, mi alzo e magari preparo il caffè, come mi siedo mi riaddormento, ho provato. Però non riesco a capire questo abbiocchino, abbiocchino post-prandiale. Dottor Ongaro, questo è uno dei segnali su cui lei ha invitato a prestare attenzione. Abbiamo detto il calo di energia, io aggiungerei anche il buco nello stomaco, la sonnolenza post-prandiale, i crampi negli sportivi, la difficoltà a concentrarsi. Sono segnali che il carburante che stiamo mettendo non è quello giusto, è vero? Beh sì, io direi in questa situazione qua sarebbe il caso di fare anche qualche esamino, nel senso che se c'è un sintomo come quello della sonnolenza postprandiale, può essere che ci sia appunto una glicemia e un'insulina nel sangue, un'insulinemia che hanno una risposta un pochino eccessiva. E quindi oltre a ovviamente correggere quello che riguarda le proporzioni dei carboidrati raffinati, degli zuccheri e certamente anche della frutta, perlomeno di certi tipi, è chiaro che bisogna anche controllare che non ci sia da regolare un pochino meglio la glicemia. Parlo proprio del caso, diciamo, di Fabiola. Quando poi, innamorati o no, ho capito che eri come ti immaginavo e che eri proprio te. Mi fai stare bene, mi fai stare bene, mi stare bene. Non è una questione solo di chili, a proposito di mi fai stare bene. Quello che cerchiamo di fare in queste puntate, devo dire tutti i giorni, ogni giorno con tanti esperti, è passare questo messaggio. Quello che mangiamo non deve solamente farci mantenere il nostro peso forma, ma deve soprattutto farci stare bene. E il dottor Ongaro e anche la dottoressa Morandi, sentendo anche il dottor Sirse, ci hanno proprio dimostrato come tutto quello che introduciamo ha delle conseguenze, attiva una risposta ormonale, dottor Ongaro, che è quella poi che ci fa stare bene, benino, malino. Ma sì, assolutamente, è quello che abbiamo tante volte ripetuto, che certamente le calorie esistono e non possiamo dimenticarcele, però tutto ciò che avviene in termini di bilancio calorico avviene all'interno di un organismo che ha un determinato terreno biologico e che dipende moltissimo dalla situazione ormonale che c'è. E gli alimenti, le scelte che facciamo hanno la capacità di influenzare molto questa situazione ormonale di base. Ecco, e tra l'altro, dottor Ongaro, giro la domanda alla dottoressa Morandi, il dottor Sirse dice che per capire se quello che mangiamo produce un equilibrio ormonale, ha come conseguenza un equilibrio ormonale corretto, noi non dovremmo sentire fame, cali di energia, buchi nello stomaco per 5 ore. Qua mi riallaccio al mi fai stare bene, cioè noi per 5 ore dovremmo avere la sensazione che la nostra macchina corpo, non mi piace chiamarla così perché il nostro corpo è molto di più di una macchina, ma comunque va al massimo, sta bene, si sente bene, così. Allora, diciamo, questo è il teorico ideale, però voglio dare tranquillità a tutte le persone che come me non hanno una bellissima risposta glicemica e quindi 5 ore può essere che non si reggano. Questo non significa niente, semplicemente bisogna stare un po' più attenti con i carichi glicemici e fare attenzione di fare degli spuntini tra un pasto e l'altro, perché altrimenti rischiamo poi nel pasto successivo di mangiare troppo. Allora, prima di andare ai mercati, mi dà uno spuntino mini mini, magari sono le 11:30, qualcuno un languorino adesso viene, che uno spuntino. Uno spuntino facilissimo che tutti possiamo utilizzare, ammesso che sia tollerato e ci piaccia, per esempio allo yogurt, lo troviamo dappertutto ormai. Certo. Meglio se bianco, e direi anche forse meglio intero, perché sazia un pochino di più, quindi il contenuto di grassi comunque non è eccessivo per i quantitativi che se ne mangiano. Certo. Essere e benessere. Iniziamo con questi colori, non a caso, perché tra i vari colori il bianco sembra non vada più di moda. Mi riferisco al bianco dei carboidrati. Negli ultimi anni ci state invitando ad aumentare il consumo di cereali integrali a favore di quelli bianchi. Il dottor Sears va oltre, ci dice di scegliere solo quelli colorati, il che significa niente pasta, riso, pane, cereali in genere, ma frutta e verdura. Allora, lo dico a tutte e due, mi spiegate perché siete tutti così accaniti con la pasta e con il riso con cui siamo tutti venuti grandi e che sono tipici della tradizione italiana? E tra l'altro noi li facciamo pure bene, insomma siamo maestri. Dottor Ungaro, poi voglio sentire la campana della dottoressa Morandi. Sì, io credo che vada fatta una premessa, cioè noi veniamo da un'epoca in cui ci è stato detto che i carboidrati erano fondamentali e ci è stato detto di mangiare addirittura il 50-60% delle calorie giornaliere totale dovevano provenire da carboidrati in prevalenza cereali, non c'è stata data nessuna possibilità di distinguere tra quelli bianchi e quelli integrali, tantomeno c'è stato detto che i carboidrati più naturali sono proprio quelli della frutta e della verdura e non i cereali. Quindi non direi che è una questione di avercela con i carboidrati bianchi, è una questione che forse siamo andati un pochino troppo in là negli anni passati, forse si veniva da un'epoca in cui insomma la gente aveva fame ed era anche corretto forse impostare le cose in questo modo. Certo, adesso i dati ci stanno dando delle indicazioni diverse, probabilmente ne mangiamo troppi e dobbiamo cominciare a distinguere tra le diverse forme. Tra l'altro non è soltanto la zona, vorrei dire, che suggerisce questa revisione, insomma lo suggerisce tutti gli studi in ambito nutrigenomico, suggeriscono lo stesso, e tra l'altro anche un'altra dieta molto nota, che è la paleodieta, arriva fondamentalmente alla stessa conclusione di considerare verdura e frutta come i carboidrati più importanti. Quindi è importante tenere presente da dove si viene, più che dire adesso di colpo ce l'abbiamo con pasta e riso bianchi, insomma. Tanto per chiarire, dottoressa Morandi? Non posso che essere totalmente d'accordo col dottor Ungaro. In realtà sono gli eccessi quelli che hanno creato dei problemi e che possono creare dei problemi. E purtroppo noi nutrizionisti ci troviamo a dover molto spesso mettere a posto dei pasticci derivanti dagli eccessi. Ecco perché poi lì si deve bandire. Però, ripeto, la moderazione secondo me è la chiave di volta in tutto quanto. Ad esempio la dieta zona, pasta, riso, insomma, praticamente li elimina, ma li elimina adattandola poi alla nostra cucina. Dobbiamo proprio dimenticarli oppure dopo un po' ritornano? No. Cioè dopo ritornano anche se magari... soprattutto come suggerisce il dottor Ungaro, versione integrale e in modo equilibrato e bilanciato nell'arco della giornata. Mi faccia capire bene. Sì, allora. Perché Sears è bello, cioè ha le idee belle chiare su questo. Lui mi ha detto non esiste la pianta della pasta, bisogna mangiare, i carboidrati sono solo colorati, quindi verdura e frutta. Dottoressa Morandi. Allora, tanto che lui non ci sente. Sono che cosa sangue del sangue dirci? Di Sears, per cui è dura che io mi possa distanziare, perché sono assolutamente d'accordo, però va fatta una precisazione. Quando entriamo, diciamo, in zona, quindi cerchiamo di raggiungere un determinato obiettivo benessere, voglio proprio dire benessere, è necessario eliminare per un certo periodo i carboidrati sfavorevoli. Perché lei chiama sfavorevoli quelli pane, che il dottor pasta, chiama pane, pasta, insomma esatto, quelli bianchi. Ok. Poi però La personalizzazione è fondamentale perché è sbagliato dire che tutti non devono mai più toccare il carboidrato bianco tradizionale. Il dottor Sears dice anche però, dipende da quanto sei fortunato geneticamente. Allora, se uno è fortunato geneticamente non c'è motivo per cui se ne debba privare per il resto della vita. Certo, usarli con cautela sì, perché sennò tutti prima o poi qualche pasticcio lo combiniamo. Quindi è chiaro che il messaggio che si dà alla massa e di fretta deve essere quello severo, perché altrimenti concedi un mignolo e prendono una mano. Dottor Ungaro, io, ritorniamo nella dieta della, nell'approccio della restrizione calorica con Luigi da Lugano, che ci ha scritto una mail. Ho 60 anni e da circa 45 ho l'abitudine di mangiare solo la sera. E mi mette tra parentesi, niente colazione né pranzo. So che viene sempre detto che è molto sbagliato, ma se per qualche motivo mi capita di dover pranzare, per tutto il giorno sento un senso di malessere. Sono in buona salute, non sono sovrappeso, i valori del sangue sono ok, un leggero colesterolo sopra la norma. È in assoluto così sbagliato il mio modo di alimentarmi? Secondo voi dovrei forzare un cambiamento? Ecco, la lettera di Luigi, oltre che a riportarci nel tema della puntata precedente in cui abbiamo avuto ospite il professor Veronesi, mi permette, dottor Ungaro, di farle questa domanda. Quando noi stiamo bene, tutto è ok, quali motivi abbiamo per cambiare la nostra dieta? Ma infatti direi che tutto dipende dalla situazione in cui il soggetto si trova, cioè se qui si tratta di una persona che sta mangiando in questo modo da moltissimo tempo e apparentemente si trova bene, quando mangia in un altro modo non si trova altrettanto bene, non direi che è necessario forzare un grande cambiamento. Certo, bisogna stare attenti ad una cosa, cioè più riduco le opportunità alimentari nel corso della giornata, più devo essere certo che quel pasto che mangio, o meglio i pasti che mangio in una settimana, in un periodo di tempo, siano dei pasti bilanciati e contengano tutti i nutrienti che servono. Perché certo, ovviamente perché è un attimo più, andare a, beh, certo, più restringo e più corro il rischio che poi certe cose non le mangerò mai. Quindi insomma non è certamente un approccio che si può in qualche modo suggerire a tutti ma... però se questa persona si trova bene non mi sento nemmeno di dire che chissà quali rischi sta correndo a fare così, ecco. Dottoressa Morandi, con l'ananas e con la frutta e la verdura mi ha fatto agitare tutti i miei ascoltatori, perché allora molti mi stanno chiedendo il 349-238-6666 se allora non va, ci avete sempre detto frutta e verdura, adesso bisogna fare delle distinzioni anche per le verdure, per la frutta, ci dà qualche indicazione? Per quello che riguarda le verdure è un po' più semplice, nel senso che le verdure vanno praticamente tutte bene, le meno favorevoli sono le carote, soprattutto cotte, le patate, i legumi, attenzione, sono proteici ma hanno anche un bel carico glicemico. Il mais, ad esempio, che si usa molto nell'insalata, è un po' birichino a livello glicemico. Per quello che riguarda la frutta, la situazione è un po' più complessa, perché non abbiamo solo un problema, per esempio, con le banane, come ormai tutti sanno, chi è in dieta, chi vuole perdere peso, eccetera, la banana è più pericolosa di altri frutti. Qua mi fa cadere un mito, perché qua a Radio 24 noi abbiamo il momento banana. Vero. La Laura, bilanciamolo Laura, almeno ad esempio mi guarda, però siamo, cioè il momento lo spuntino alla merenda, la banana come si faceva all'asilo. Adesso intanto lei pensi che cosa dobbiamo bilanciare? 800 24 00 24, noi ritorniamo subito dopo insieme. Cosa andiamo a sentire? Le informazioni sul traffico. Essere e benessere, eccoci qua. Allora la banana. Il nostro sappiamo, momento banana come è un frutto bellissimo, ha il potassio, un sacco di buone qualità, però è anche un frutto bello ricco di zucchero, quindi non va bene per tutti. Però purtroppo a fianco alla banana possiamo avere anche delle altre sorprese, tipo il mango, tipo la papaya, che è vero non mangiamo abitudinariamente qui, ma nell'ambito della frutta normale, quindi tutto il resto che rimane della frutta, per alcuni casi bisogna fare dei distinguo. L'ananas, il melone, l'anguria sono tre frutti particolari. L'anguria e il melone hanno un indice glicemico basso ma un carico glicemico alto, quindi birichini, bisogna stare attenti. Invece l'ananas è, poverina, sulle tabelle perfetta, Sì. Però alcune persone effettivamente dopo poco che l'hanno mangiata comunque... Quindi allora la formula per capire se la frutta che stiamo mangiando va bene per noi è che se ci viene subito dopo poco tempo fame vuol dire che qualcosa non è andata bene? Partiamo però, attenzione, da un presupposto che il pasto sia bilanciato. Certo. Perché se io metto la frutta migliore ma magari ho mangiato troppo carboidrato perché ho mangiato, non so, un panino... È normale che ci venga fame e probabilmente anche l'abbiocco, ma non è colpa dell'ananas. Andiamo da Mirko, che ci chiama dalla provincia di Livorno. Buongiorno Mirko. Sì, buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Io volevo portare un contributo e chiedere un consiglio. Perfetto. Allora, fa una specie di portateco. Lei dà una cosa a noi e noi diamo una cosa a lei. Me lo auguro. Fantastico. Allora, ho avuto la fortuna di conoscere una nutrizionista e un po' per gioco mi sono fatto fare una dieta. E praticamente una volta che me l'ha fornita ho pensato che sarei morto di fame. In realtà, dopo una settimana, è praticamente una settimana che sto seguendo questa dieta, le cose sono cambiate in maniera positiva drasticamente, nel senso che non sento assolutamente la fame, sto benissimo, la notte soprattutto riesco a dormire, cosa che non riuscivo a fare prima. Questo dimostra, Mirko, il dottor Ongaro lo può sottolineare, un po' quello che noi abbiamo cercato di affermare tante volte, grazie al dottor Ongaro, nelle nostre puntate di Mangia con me. Cioè, quello che mangi condiziona le tue risposte, dottor Ongaro. Infatti noi abbiamo selezionato dei casi a cui lei ha impostato proprio una dieta in base al problema che avvertivano. Sì, assolutamente. E tra l'altro non è una cosa rara il fatto che il paziente, diciamo, guardi l'approccio alimentare e dica: oddio, qui non ce la farò mai, morirò di fame, non riuscirò mai a rinunciare a certe cose, e poi nel giro di pochissimi giorni si trovi invece in una situazione molto diversa, in cui ha più energia, è più stabile, eccetera. Mirko, mi scusi, l'ho interrotta, ha fatto una piccola parentesi, le ripasso la palla. La ringrazio. E qui arriva il consiglio. Con la vita frenetica che viviamo quotidianamente, con le feste di Natale e di Pasqua che ormai sono prossime, durante le vacanze estive andiamo a cena fuori più spesso. Come riusciamo? E quindi ecco la domanda. Sono tutte cose che ci piacciono molto. E la domanda, come facciamo, Mirko, a coniugare un'alimentazione, diciamo, sana con certo, insomma, Mirko, lui si è messo a dieta ora, ha i risultati e sta bene, dice adesso c'è Pasqua. Dottor Ongaro, che cosa facciamo? Beh, come sempre non è che abbiamo la bacchetta magica, però no? Diciamo che un po' di bacchette magiche le abbiamo magari. No, io quello che suggerirei è intanto di concepire l'intero anno come un periodo molto lungo in cui, se cerco di mangiare bene sempre, qualche eccezione non creerà sicuramente un problema. Sì. E poi di non cominciare a preoccuparmene troppo presto, cioè voglio dire, lei cerchi di mangiare nella maniera corretta, quella che le sta dando i risultati attuali, il più spesso possibile. Se ogni tanto ci saranno delle interruzioni, cosa vuol farci? È così, amen, insomma, non è... Abbiamo sempre detto che le eccezioni non rappresentano un problema, credo che sia vero. Cioè. Vorrei aggiungere un altro spunto di discussione, gli sportivi e la dieta zona. Molti sportivi hanno sposato la zona, ma il professor Sirse lo sa bene, non è amore disinteressato, perché la dieta zona permetterebbe di ottenere migliori risultati con minore sforzo. Andiamo a sentire. Oh, of course. If you can, if assolutamente sì. Gli atleti professionisti usano la zona per ottenere dei risultati brillanti e prestazioni sportive superiori. Per quanto riguarda gli atleti amatoriali che vogliono essere più in forma, la zona aiuta, e magari con un po' di sforzo in meno, perché tendiamo a pensare che dobbiamo faticare tanto per essere in salute. In realtà dimentichiamo che a volte l'alimentazione è più importante, e con la zona forse è possibile fare un pochino meno di attività fisica, mantenendo lo stesso livello di forma. The less you have to exercise to maintain a high level of fitness. Ma in che modo? Well, when we exercise, in realtà, quando noi facciamo attività fisica, usiamo energia chimica e le calorie che noi ingeriamo servono appunto per trasformarsi in energia. La dieta zona cosa fa? rende più efficiente il processo di conversione delle calorie in energia chimica. Questo è un meccanismo che viene usato dagli atleti per poter avere delle prestazioni che permettono di allenarsi più a lungo. Invece, gli sportivi amatoriali, tramite questa maggiore efficienza nella conversione, possono ottenere maggiori risultati di forma con un pochino meno di allenamento. To get better performance with less actual training. Ecco il segreto. That's the secret. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Luca Gatteschi, medico della Nazionale Calcio. Buongiorno, dottore. Buongiorno a voi. 40-30-30 è la formula della dieta zona. Poche ore dall'amichevole con il Brasile a Ginevra. Ci dia la sua formula. Invece di carboidrati, proteine e grassi, giochiamo, chi so, su dieta, allenamento e concentrazione? Beh, direi fondamentalmente qualità. Qualità non solo fisiche, ma anche qualità mentale, quindi concentrazione. Queste sono una dote per l'atleta. Allenamento di sicuro, e poi una serie di piccoli fattori, più o meno piccoli, fra i quali sicuramente anche l'alimentazione. Dottore, a proposito di numeri, percentualmente quanto l'alimentazione determina il successo di un atleta agonista? Ma più che parlare di numeri e di percentuali, io credo prendo un'immagine di un amico nutrizionista. Noi dobbiamo pensare alla prestazione di un atleta come una macchina perfetta, dove ci sono tantissimi ingranaggi per arrivare al risultato ottimale. Ecco, gli ingranaggi più importanti sono sicuramente l'allenamento, le qualità, la concentrazione. L'ingranaggio alimentazione è un ingranaggio abbastanza piccolo. Dottore, a proposito di alimentazione, però è un ingranaggio, e se l'ingranaggio non funziona, non funziona niente. Quindi alimentazione non è tanto un numero alto, ma che se non funziona quello, blocca tutto il resto. Dottore, ma a proposito di alimentazione, c'è una dieta azzurra? Cosa mangeranno oggi gli azzurri? C'è una dieta azzurra, nel senso che noi abbiamo comunque dei principi generali, dobbiamo però confrontarci con atleti che arrivano da squadre diverse, dove hanno abitudini diverse, dove hanno indicazioni diverse, quindi noi abbiamo dei principi comunque generali che devono essere rispettati, e poi cerchiamo di dare a tutti i calciatori la possibilità di mantenere le loro abitudini. Prima di chiudere, per Super Mario una super dieta? Non c'è una super dieta, ci sono dei principi generali. C'è un Super Mario, ma non c'è una super dieta. La qualità, soprattutto, bisogna pensare alla qualità e alla scelta degli alimenti. Bisogna non pensare più che l'alimentazione sia solo energia, ma è qualità. Cioè, bisogna scegliere bene gli alimenti sono un farmaco in parte, quindi grazie. Se si sceglie bene si fa un buon risultato. Grazie al dottor Luca Gatteschi, al dottor Ongaro, alla dottoressa Morandi, a voi che ci avete seguito e chiamato, e potete continuare anche a seguirci su Facebook e su Twitter. Grazie, vi saluto. Grazie. Appuntamento a domani. Essere e benessere.